oggi eravamo nel campo dell'aneddotistica. Della storia o dell'aneddotica. Aneddotica, direi. Ma è per questo che l'ho voluta al mio fianco, maestro. Ma sono un caprone. Possiamo omologare entrambe. Sitting on the Dock of the Bay, la storica canzone targata Otis Redding. Forse è vero che non è mai entrata nelle prime tre posizioni di nessuna classifica musicale. Ma direi che non ci risulta. No, assolutamente no, anzi. E allora forse è vero che fu censurata da ben 12 stati americani. Che neanche questa no. Ci e allora risulta. Purtroppo è vero l'aneddoto segnalato all'ipotesi C, ovvero il mitico Otis Redding morì tre giorni dopo aver inciso Sitting on the Dock of the Bay. E come morì? Morì in un incidente, in un tragico incidente aereo, e quindi non poté mai sapere quale grande successo avrebbe fatto la canzone, che ovviamente andò, forse anche per il clamore dato dall'incidente aereo, balzò ai primi in classifica di tutto il mondo, ponendo Otis Redding tra i gota, tra i grandi, tra i giganti della musica rock. Viva Otis Redding! Viva Otis Redding nel gota dei grandi rocker! Sitting on the Dock of the Bay, nella versione di della Rock FM All Star Band, non ce ne voglia Otis Redding, abbiamo messo un po' di campanilismo. Dopo il test attitudinale di oggi, benvenuti nella quarta e ultima parte di Pane, Burro e Rock and Roll. Sono le 8 e 36 minuti primi e parecchie sono le cose da combinare anche in questo ultimo blocco che ci porterà fino alle 9. Musicisti rock con la bocca, preparatevi. Andrea Patentato 147 e i nostri colletti bianchi con suoneria aziendale rock, preparatevi. Il tutto qua su Pane, Burro e Rock and Roll, dopo i Blue Oyster Cult. Yeah. la faccia del riffone rock, eh? Blue Oyster Cult, Godzilla. Allora, entriamo nel reparto colletti bianchi, reparto impiegati all'ascolto. Il putiferio è stato scatenato dal nostro patentato 147. Buongiorno Andrea, bentornato. Ciao a tutti. Colui che per tanti mesi ha ascoltato la concorrenza, che da quest'anno, dall'inizio del 2008, anno della svolta, ha deciso di lanciare questi nuovi sondaggi. Li abbiamo tanati, Andrea. Sono una marea. Ho qua tutti i messaggi, cercherò di leggerteli velocemente. Sì. Ricordiamo che tu chiedevi all'ascolto, soprattutto agli impiegati, ai cosiddetti colletti bianchi, gli schiavi della cravatta. Gli schiavi della cravatta, di confessare in cosa siete rock, se pure portate la cravatta. E chiedeva, la prima domanda era il vostro cellulare aziendale. È successo di tutto, Andrea, perché tu non l'hai vissuta di qui, l'hai vissuta di là. Qualcuno si è anche lamentato, perché ve la prendete con gli impiegati? Era una dichiarazione d'amore nei confronti dei colletti bianchi, però sai, a volte non si viene capiti, niente. Capita. Altri invece dicono ne ho ricevuto uno oggi, adesso non so se lo ribecco, diceva io sono impiegato, colletto bianco, ma vado col chiodo e con le borchie e i capelli lunghi, buon per lui. Beato lui. Mentre per quanto riguarda le suonerie li abbiamo tanati, guarda, velocemente, questo mi dice My Generation degli Who quando telefona il mio capo, quando chiamano i colleghi c'ho il cancan, e per me ste e per i miei familiari Burn, composto da me dei Deep Purple. Bello. Abbiamo, guarda, ce n'è, il mio capo suona Mica, ma solo il ritornello, non tutto il pezzo. Sì. No, però questo è il cellulare del suo capo, quindi dice non posso farci niente. Talking About Love dei Van Allen, scrive Cesare. Questo qui sta smanettando sul suo telefonino polifonico nuovo e chiedeva se è rock mettere il messaggio tratto dal film Il Gladiatore, che dice al mio segnale scatenate l'inferno. Beh, sicuramente è rock. Direi di sì. Roberto c'ha Angry Again dei Metallica, tipo il nostro Francesco. Va molto di moda quello di dare le suonerie diverse, eh? Cellulare aziendale o In The City dei Gem, e quando chiama il capo o Bastardi dei Pancreas. Allora, io ho colleghi che ogni giorno cambiano suoneria e si portano addirittura l'hard disk, un piccolo hard disk da casa per caricare poi le suonerie durante la giornata. Un collega che spazia tra Linkin Park, hai capito, se li sceglie al momento, cambia di suonerie. Proseguo con Lam, Children of Decadence dei Children of Bodom. Qui vado Flight of Icarus degli Iron Maiden, firmato Topone. Vediamo, questo agli Who, Alex da Genova ai Pink Floyd, sono una marea. Questi sono tutti che non ho letto in diretta. Queen of the Stone Age da un'impiegata rock con questa suoneria. Questo Francesco c'ha Buon Natale però rock. Grande. Franchi c'ha i Machine Head. Vediamo se trovo la firma. Io faccio l'ingegnere e come musichetta sul cellulare aziendale ho Cyber Waste dei Fear Factory. Elena da Imola. Agli Who, Fabio da Livorno, cerco di finire così, impiegato 55 anni. Non sono pettinato, suoneria ufficiale Jimi Hendrix. Alle riunioni mi suona l'Internazionale Socialista. E sono abbastanza orgoglioso, dice anche. Wild Side dei Motley Crue, quando mi suona il mio batterista Walk dei Pantera. Ti finisco, Sgarz, suoneria aziendale Surfing Bird, ma fatta dai Ramones. Insomma, un successone, Andrea, li abbiamo tanati. Siamo una categoria numerosa. Sì, sì, ci sono lì fuori, sono pronti a seguire i nostri sondaggi. Ne avevi pensato uno nuovo? Ma io volevo lanciare uno nuovo, sì, magari anche ancora più generale. Ovvero? Perché il cellulare aziendale non lo possiedono proprio tutti gli impiegati. Esatto. Però tutti gli impiegati sicuramente hanno un PC. Aia. Sia portatile o un PC fisso in ufficio, 8 ore sono collegati a questo PC. Per cui i desktop e gli sfondi, io direi che... Ok. Sono... Ecco, io lancio questa, quindi, il desktop del PC. Il vostro desktop è rock oppure... Guarda, io ho una foto di me e Freak vestiti da Kiss, quindi sono preciso. Io ho la copertina di E Forest dei Cure. Quindi anche tu sei bello preciso. L'appello nuovo lanciato da Andrea 147 è: il vostro desktop è rock oppure no? Chiaramente dell'ufficio, non quello di casa. Bravo. Dobbiamo sempre mantenere specifica la categoria. Specifica sempre. Andrea, io passerò la settimana a raccattare il tuo sondaggio e poi ci risentiamo. Perfetto. Buona giornata. Ciao. A tutti. Occasione irripetibile, più unica che rara. Solo pane, burro e rock and roll ve la dà. Trasformarsi in musicisti rock con la bocca. Solo pane, burro e rock and roll vi offre questa opportunità unica. Gettate nei cassonetti le vostre chitarre, le vostre batterie, non servono più bassi. Nulla si può suonare con la bocca, perché democraticamente finalmente realizzata. Bravo. La democrazia in musica è quasi come la dodecafonia. Quasi, sì, esatto. Sapessi ma cos'è, potrebbe... ancora più avanti. abbiamo un provinante, dovrebbe chiamarsi Tommy e dovrebbe chiamarci da Imola. Pronto, pronto? Tommy, sono qui, ecco. Buongiorno a tutti quanti, benvenuto. Buona a fare buon rock and roll, come va? Abbastanza bene. Allora, come situazione, però. No, infatti, questo prima introduzione per tranquillizzarvi un po'. Tommy, tu sei già un musicista? No, mai suonato nulla. Nulla, nemmeno il pifferino alle medie. Sì, però facevo l'arabo e basta. E basta. Ah, benissimo, benissimo. Nella condizione ideale. Esatto. Nulla di più. Che cosa? Beh, quanti anni hai? 31. Ah, ottimo. Età vera. In fuori onda avevi detto 29. No, è perché sono andato in palla. Mi avevano appena chiesto un'informazione stradale e non sono pratico. Ci va bene, con qualsiasi età ci va bene. Ci piace. Possiamo chiederti, nel caso non dovesse andare bene la carriera da musicista rock con la bocca e quindi tu dovessi proseguire quello che stai facendo, cosa fai? Faccio il geometra. Il geometra? Oh. Molto male lo faccio, tra l'altro. Eppure, no. Peggio del musicista. No, non fare, no, non dire così, Tommy. No. Frick, gli dica qualcosa. Ma, no, Frick. Ma non tutto è perduto. Ecco. Tommy, ti prego, dai il tuo meglio. Cosa vuoi fare con la bocca? C'è anche la polizia che mi chiede di spostarmi dal parcheggio. Aia. Perché mi ero fermato sul primo parcheggio che ho trovato. Aia. Vediamo. Allora, cosa facciamo? In diretta te la senti di restare? Io parto. Vai, subito, vai. Vai, qualsiasi cosa tu voglia fare, falla, vai! Vado! Vai! Immaginati i poliziotti che ce l'hanno di fianco. Mi stanno facendo segno con la paletta. Ancora? La paletta? No, allora Tommy. No, allora salutiamoci. No, dai, non ti vogliamo mettere nei guai. Passaci i poliziotti. Ma ti stanno... Sarò mica in diretta, spero. In questo momento, in realtà, sì. Tommy, sì. Sì, sei in diretta. Non ti devi preoccupare di questa cosa. No, i punti della patente mi occupano un po' di più. Infatti, dai. Tommy, ci sentiamo in un altro momento, magari. Grazie mille. Ciao, sei stato bravissimo. Era fantastico. Ciao, Tommy. Viva gli Slayer e viva i poliziotti. Viva Slayer con la bocca. Erano gli Slayer, sì, li hai riconosciuti. Ah, naturalmente. Bravo Tommy da Imola. Il primo con i poliziotti che lo fermano. Bene. Per fortuna. She keeps them away shandle in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. Even guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Then again, incidentally, that way. Love you came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of action. Ehi, frigo! Questa volta è la volta giusta, è quella esatta, perfetta, precisa! Che c'è, Rogna? Hai trovato il modo di uscire da queste gabbie? Ma no, cosa dici? Io ci voglio restare qui dentro per sempre! Ma non vedi che bello? È tutto pulito, abbiamo il nostro cibo quotidiano, ci trattano bene quei maledetti umani, e poi questa volta è la volta giusta, io me lo sento! Ma la volta giusta di cosa? Sono innamorato. La topina della 26? No, è quella gran topo sbarba della 23. Ma se ci hai parlato sì e no 5 minuti, è appena arrivata! Sì, ma tu non puoi immaginare dopo quei 5 minuti come mi sono sentito stanotte! Elettrizzato, scosse dappertutto, partivano da qui e arrivavano qua, una roba pazzesca, un colpo di fulmine galattico. Guardi i miei capelli, sono ancora tutti elettrostatici, che forza! Rogna, caro amico mio, ma non ricordi cosa hai fatto ieri dopo aver parlato con la topina della 23? Ah sì, certo, sono andata a letto. Sì, ti piacerebbe. Perché? Cosa ho fatto? Ti hanno fatto l'elettroshock per curare crisi convulsive. Ah, allora non era amore? No, tra l'altro oggi tocca a me l'elettroshock. Allora fatti una risata, frigo. Guarda che è fichissimo. Io sento ancora i brividi per tutto il corpo. Senti qua che roba. Sei elettrizzato. Al grido di Song number 2 dei Blur, direi che siamo arrivati alla fine anche di questa puntata 161. Vi auguro un ottimo proseguimento per questo martedì 15 di gennaio 2008, l'anno della svolta. È stata una puntata difficile, ma ce l'abbiamo fatta anche quest'oggi. Volendo, se vi siete persi qualcosa, la ritrovate su RadioRockFM.com, nei programmi in streaming, oppure in podcast, oppure su myspace.com/paneburrofm. Diamo appuntamento a domani, come al solito, dalle 7 alle 9 del mattino, qui pronti a servire la colazione più rock d'Italia, che risponde al nome di pane, burro e rock and roll. Senti qua. Pane, burro e rock and roll. Un saluto dall'Ariele, Spadino e Fricantoni. La tua colazione rock. Dalla nostra redazione e da tutti quelli che ci hanno aiutato. Burro e rock and roll. Ne abbiamo di cose da combinare sta settimana, eh? Cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. minuto alle 9 del mattino, siamo abitudinari, diamo il buongiorno a Marco Gravelli. Buongiorno. Giornata, come va oggi? Sì, dormito poco, comunque va. Invece si presenta un bel pomeriggio, no? Dici? Sì. C'ho il pomeriggio lungo il martedì. Esatto. Ma attenzione, Spadino, eccolo lì. Ormai ce l'abbiamo, non la togliamo più. Notizie buone, che regione fai oggi? Oggi Toscana. Bravo. Gli amici della Toscana, un po' come qua da noi, cielo in prevalenza molto nuvoloso e coperto. Avremo piovaschi diffusi, specie sui settori costieri. La neve cadrà sui rilievi appenninici oltre 1400 metri. Betone. Quindi se fate la cisa, eccetera, state attenti. Temporaneo miglioramento al pomeriggio, ma locali precipitazioni a tratti insisteranno ancora lungo i versanti di Ponente. A me sta cosa della previsione del tempo mi piace un sacco, non so. Anche se non parla di me, comunque mi piace pensare. E ieri ho dato sul Varesotto le notizie Hai vicino a casa tua. Attendevo la neve, infatti, ma non è arrivata. Qualche spruzzati, niente? Sai, la pioggia un po' grossa te la concedo, se vuoi. Va bene. A domani. Ciao!